effetto. Qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, ciao e bentrovate a tutti i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Vi trovate nello spazio radiofonico della stampa rassegnata, che è uno spazio radio che con l'inizio del 2018 si è dato l'obiettivo, forse anche troppo ambizioso, di fare riflessioni e ragionamenti critici attorno a quello che esce sulla stampa locale. Quindi ci riferiamo per lo più a notizie appunto che compaiono su i giornali, le maggiori testate che si occupano di stampa e cronaca locale, laddove ci riesce, intrecciate alle voci e alle vertenze, ai conflitti che vivono nei nostri territori. Un particolare riferimento di questa nostra trasmissione Spazio Radio è sempre stato rivolto alle vicende legate all'opposizione popolare alla costruzione dell'inceneritore di Firenze, nello specifico localizzato nel progetto in Case Passerini, località Case Passerini, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, e dall'altra parte alla vicenda ancora fortemente aperta e critica della volontà di espansione dell'attuale aeroporto di Peretola fino alle dimensioni di un aeroporto intercontinentale, con tutto il riassetto annesso e connesso dell'area nord-ovest di Firenze e della piana fiorentina. Come i nostri ascoltatori più affezionati sapranno, noi ci muoviamo sempre con un ritardo di una settimana, nel senso che quello che andrà in onda questa settimana, dal lunedì 25 fino alla prossima domenica, che è il primo di luglio, in realtà saranno avvenimenti e commenti di cronaca locale che sono comparsi nella settimana che invece va dal lunedì 18 più o meno a domenica 24 giugno più o meno, che poi è anche la festa di San Giovanni. Quindi, muovendoci con una settimana di ritardo, vi ricordo che ci potete ascoltare o nella diretta del lunedì alle 15.30, oppure nelle due repliche settimanali, quella del mercoledì alle ore 23.59 o mezzanotte, che dir si voglia, orario gustoso per chi se lo può permettere, oppure quello della replica del giovedì mattina alle 8.30, anche questo orario direi gustoso per chi ce lo può permettere. Nel tentativo questo di spostare anche gli orari di ascolto, nel tentativo, ripeto, di cogliere momenti della giornata differenti e quindi probabilmente anche un pubblico di ascoltatori diverso. Detto questo, come sapete, avete sempre a disposizione l'opzione podcast che potete ascoltare, scaricare e mettervi nel vostro MP3 e sentire poi comodamente quando e come volete. Direi che con questo le nostre cordialità di rito e iniziali le abbiamo fatte e passerei immediatamente a dare alcune informazioni su quello che è successo questa settimana. Vorrei cominciare, visto che nella puntata della settimana scorsa poi in realtà non ne abbiamo parlato sostanzialmente quasi per niente, con un piccolo sguardo a quello che è il fronte appunto delle due vertenze di cui ho già introdotto. Per quanto riguarda la questione dell'inceneritore, diciamo, per chi segue le cose o per chi non le ha seguite, insomma, lo riassumiamo, sappiamo che con la sentenza del Consiglio di Stato, arrivata per l'appunto nel mese di giugno, si è aperta, non è assolutamente finita la lotta sul ciclo dei rifiuti, ma indiscutibilmente si è aperta una nuova fase. La sentenza del Consiglio di Stato, sentenza che per riassumerlo è stata abbastanza debole, nel senso che non ha preso in considerazione moltissimi dei punti e delle criticità del progetto proposto che erano state messe nero su bianco nel ricorso fatto dai comitati, dei cittadini e dagli abitanti, In realtà è stato preso in considerazione l'aspetto forse più esteriore e debole della vicenda, che era la diciamo contraddizione procedurale di non aver fatto precedere alla eventuale costruzione dell'inceneritore la piantumazione di alberi prevista in forma compensativa per quanto riguarda gli effetti sulla emissione di particelle inquinanti e inquinanti nell'aria. Quindi questo aspetto è stato quello che la sentenza del Consiglio di Stato ha utilizzato per bloccare le procedure ed era esattamente lo stesso argomento che attraverso il quale e sul quale si era data la sospensiva dal TAR il 22 novembre del 2016, cosa che aveva tenuto in stand-by il progetto fino alla definitiva sentenza del Consiglio di Stato. Questo non chiude in maniera assoluta la vicenda dell'inceneritore di Case Passerini Firenze, perché sappiamo che l'azienda proponente, che è sempre Q-Termo, l'azienda Q-Termo, che a sua volta è costituita da due componenti, l'azienda pubblica Alia, che ha sostituito Quadrifoglio, e l'azienda invece privata, la grossa multi-utility Gruppo Era di provenienza emiliana, sì, quindi dall'altra parte dell'Appennino. Quindi sappiamo che la vicenda potrebbe ricominciare con un nuovo iter autorizzativo, ovviamente anche come movimenti e come parti in causa e coinvolte in questo conflitto pluriennale. Abbiamo comunque festeggiato l'arrivo della sentenza del Consiglio di Stato, tra l'altro attesa da mesi. Anche perché sicuramente lo scenario che si è aperto dopo la sentenza, cioè quello caratterizzato dall'eventuale necessità di ricominciare tutto l'iter autorizzativo per l'azienda proponente, è uno scenario sicuramente non favorevole appunto ai proponenti di inceneritore. Per questo appunto abbiamo festeggiato e con questo direi che si è sostanzialmente inaugurata una nuova fase del conflitto. Nuova fase del conflitto che vede in questo momento i movimenti e i comitati diciamo impegnati nel tentativo di condizionare e pesare il più possibile sulle decisioni che la Regione Toscana dovrà prendere in materia di revisione e riprogettazione del piano dei rifiuti. In questo, ovviamente, si può aprire degli spazi anche in qualche modo critici rispetto al rapporto tra incenerimento e utilizzo delle discariche. È appunto il caso, per esempio, della discarica di Firenzuola, di proprietà del gruppo Era, non casualmente, cioè la stessa azienda multi-utility privata che insieme ad Alia andava a formare l'azienda Q-Termo pubblico-privata che proponeva l'inceneritore di Firenze e che ha cominciato a richiedere le autorizzazioni per la riapertura e ampliamento della discarica del Pago, così si chiama la discarica di Firenzuola, che già c'era e poi era arrivata, diciamo, alla saturazione per quanto riguarda il carico e il conferimento dei rifiuti, e che il gruppo Era ha cominciato a richiedere le autorizzazioni per la riapertura già sul finire del 2017. Chiaramente questi movimenti, la richiesta di autorizzazioni per l'ampliamento non facevano sperare nulla di buono. Anche se appunto erano in qualche modo da leggersi come strettamente legati con la vicenda delle autorizzazioni per l'inceneritore di Firenze. Sto dicendo più o meno in sostanza che il ragionamento insito dentro la vittoria di alcuni non può e non deve significare la sconfitta di altri, cioè noi sappiamo con un certo grado di certezza e maturità che se il livello di rifiuti prodotti non viene considerevolmente intaccato proprio perché assistiamo ad una riduzione a monte del quantitativo di rifiuti e nello stesso tempo a una riduzione a valle dell'indifferenziato attraverso un incremento dei piani di riuso, riutilizzo, riparazione e riciclaggio, noi sappiamo che risparmiarsi l'inceneritore a Firenze può nello stesso tempo significare che verranno ampliate delle discariche da qualche altra parte o che aumenterà la capacità combustiva di inceneritori già presenti. Quello che appunto è lo scenario che si presenta è uno scenario in cui come movimenti e come comitati che ci siamo battuti e continuiamo a farlo contro non solo l'inceneritore di Firenze ma contro l'incenerimento come pratica, siamo nello stesso tempo coinvolti e impegnati nel tentativo e nella possibilità di allearci e darci reciprocamente mano con situazioni che invece dall'altra parte potrebbero vedere un peggioramento delle proprie condizioni di vita, proprio a partire dalla vittoria su Case Passerini. Quindi che è successo in questa settimana sulla discarica del Pago? In questa settimana è arrivata l'autorizzazione da parte della Regione per l'ampliamento della discarica. Proprio su questo argomento, pochi giorni prima della discussione con cui la Regione avrebbe dovuto o potuto o non potuto o dovuto o non dovuto, scusate il gioco di parole, il mio impappinamento, avrebbe dovuto o non dovuto concedere l'autorizzazione per l'ampliamento, le mamme non inceneritore, consideriamole come headliner, frontman o frontwoman in questo caso, proprio perché si tratta di mamme, hanno scritto ai sindaci, agli amministratori del Mugello, una lettera che è stata diciamo in qualche modo ripresa a piene mani anche dalla Nazione, cosa non assolutamente non scontata trattandosi anche della Nazione, e che vado a leggere l'articolo per darne informazione, tenendo anche conto che una delle mission della nostra radio è dare voce a ciò che molta voce non ha, e indubbiamente quella delle mamme non inceneritore non è una voce mainstream, per quanto siano riuscite a sicuramente insomma ad allargare il bacino di utenza e di riferimento in modo significativo. Ciò non toglie che credo sia interessante leggerlo, anche perché l'articolo della Nazione, ripeto, di Paolo Guidotti riporta ampi stralci della lettera scritta. Dall'articolo della Nazione infatti leggiamo: mamme non inceneritore anche contro la discarica, una lettera ai sindaci sul ciclo dei rifiuti. Anche noi eravamo a manifestare a Firenze contro la riapertura e l'ampliamento della discarica di Firenzuola. Lo scrive il comitato Mamme Non Inceneritore, che ha indirizzato una lettera agli amministratori locali mugellani per invitarli a fare di più sul fronte della raccolta differenziata. Per risolvere il problema dei rifiuti, scrive il comitato, bisogna partire dalla testa, non dalla coda. I rifiuti vanno diminuiti, differenziati, riciclati e riusati. Soltanto avviando questo processo si può veramente sperare di poter chiudere le discariche e gli inceneritori. E vengono chiamati in causa i comuni del Mugello. Purtroppo i dati relativi alla raccolta differenziata dei comuni mugellani sono a dir poco imbarazzanti. Ad esclusione di Dicomano, tutti gli altri comuni sono ben lontani dal raggiungere la minima percentuale di raccolta differenziata imposta per legge, il 65%, che doveva essere raggiunta già dal 2012, quando invece si è bloccati al 40% e in alcuni casi anche meno. Presto, però, entrerà in funzione porta a porta e, volenti o nolenti, le percentuali si alzeranno e in modo propositivo il Comitato contro l'inceneritore sollecita i sindaci mugellani. Su questo fronte voi potete fare tantissimo. Chiedete di avere un servizio all'altezza di porta a porta, chiedete di passare alla tariffazione puntuale, che premia chi differenzia bene e scova, tra virgolette, tutte le utenze non paganti. Lanciate progetti innovativi per mettere definitivamente al bando la plastica nei vostri comuni, attivate il servizio di raccolta differenziato nei mercati e nelle sagre. Come vedete, il vostro ruolo può essere quello di protagonista e non quello di un semplice spettatore di scelte imposte dai gestori o enti lontani dal vostro territorio. Questo era l'articoletto che appunto riporta diverse delle dichiarazioni delle mamme, ragionamento che ovviamente, come ripeto, essendo parte anche in causa e in questo conflitto, sposiamo appieno perché rinvia la palla delle responsabilità a tutti gli amministratori e a tutti i livelli. Cioè, a volte è gioco fin troppo facile nascondersi dietro al dito delle scelte imposte. È vero che la discarica di Firenzuola viene ampliata e allargata proprio in virtù dello stop all'inceneritore di Firenze, ma questo non può costituire un alibi per la politica sui rifiuti anche dei comuni mugellani. È chiaro che il nostro no alla discarica non è un no strumentale, non è un no NIMBY, cioè con NIMBY si usa questo acronimo ormai da anni, è una categoria più o meno giornalistica che è stata prodotta per schiacciare come argomento contro molti movimenti, sta a significare not in my backyard, cioè non nel mio orticello, e vorrebbe stare ad indicare il fatto che alcuni movimenti in difesa del territorio lo fanno, fanno difesa e mobilitazione solo per difendere se stessi, una forma di egoismo per il quale morte tua è vita mia. Questa non è assolutamente la posizione e la linea di condotta dei movimenti contro l'inceneritore, che invece si sono sempre dati la mano, come recita, come dice, come racconta già l'inizio dell'articolo. Noi, anche noi come assemblea e come partecipante al presidio non inceneritore in aeroporto, come compagni e compagne di Firenze, anche come Radio Wombat, eravamo presenti alla manifestazione fatta a Firenze dagli abitanti di Firenzuola, e nello stesso tempo gli abitanti di Firenzuola hanno manifestato insieme a noi sia nelle grandi manifestazioni di questi anni nel territorio fiorentino, sia in altri piccoli episodi di conflitto, piccoli presidi, iniziative, discussioni, assemblee, il primo incontro delle realtà toscane che è organizzato a Villa Montalvo. Quindi il tentativo di mettersi in rete e di rafforzarsi a vicenda c'è, quindi sui territori ognuno deve fare la propria parte. Noi non abbiamo mai detto no all'inceneritore, sì alle discariche, cioè non c'è in questo senso non c'è opposizione, ma ovviamente la vittoria dell'uno non può diventare il problema dell'altro, e in questo senso ognuno deve fare la sua parte. Quindi avanti con la lotta, la battaglia degli abitanti di Firenzuola contro l'ampliamento della discarica, e nello stesso tempo forza e coraggio nel chiedere fortemente la messa in pratica di altri piani fondati sul riciclo, riuso, la tariffazione puntuale, che ripetiamo, come a volte abbiamo già detto, serve a riappropriarsi anche del rifiuto, perché la differenziata, che comunque in qualche modo facciamo anche se a livello insufficiente, è una differenziazione ed è un lavoro vivo, quello di differenziare i rifiuti, che gli abitanti fanno gratuitamente per aziende, spesso e per la maggior parte private, che poi utilizzano questi rifiuti differenziati per fare profitto privato. Questo è un'espropriazione, un'ennesima forma di espropriazione ai danni degli abitanti, che invece devono, tra virgolette, rientrare in possesso del rifiuto, che non è rifiuto ma è materia prima seconda, e che una volta compresa e veramente trattata come tale, deve essere anche quantificata nello sforzo di differenziazione fatto da tutti i cittadini. Quindi chi differenzia deve essere premiato per questa sua attività, chi non differenzia deve in qualche modo essere punito con una tariffazione che sia puntuale, cioè che progressivamente premi il livello di differenziata che viene svolto dalle singole utenze. Chiaramente non è cosa semplice l'attuazione di questi piani, ma non può diventare la foglia di fico per le amministrazioni. Dall'altra parte, tutto ciò deve essere accompagnato, ed è quello nel quale siamo impegnati e la direzione nelle quali vanno anche le mie lunghe ciance su questi argomenti, una nuova o più profonda, o più larga e più trasversale coscienza del rifiuto e del ciclo appunto delle merci. Avanti con questa notizia, che credo di aver allargato fino all'infinito, per spostarmi un attimo solo lateralmente e darne un'altra, fare un po' il punto sulla situazione della vertenza, diciamo, aeroportuale. Lo diciamo subito, il 27 di questa settimana, che sarà un mercoledì pomeriggio sera, ci sarà una mobilitazione per certi aspetti anche innovativa, senza alcuna presunzione nell'utilizzare questa parola, che l'idea, la proposta e l'obiettivo è quello di realizzare una catena umana, una lunga fila di persone che mano nella mano diano un abbraccio solidale e difensivo al Parco della Piana, cioè a tutta quella porzione di terreni e territorio che si estende geograficamente da Via dello Smannoro guardando verso nord-ovest. Quella è la linea, diciamo, che demarca geograficamente il Parco della Piana, quello che potrebbe diventare Parco della Piana e che ad oggi Parco Agricolo della Piana ancora non è, ma è ad oggi ancora fortemente minacciato dal progetto di espansione aeroportuale. Progetto di espansione aeroportuale che negli affari, nelle intenzioni e negli obiettivi di quelli che da tempo chiamiamo i padroni della Piana non è affatto cambiato, cioè sostanzialmente l'idea è quella di spostare l'attuale pista dell'aeroporto di Peretola in senso parallelo al raccordo autostradale, realizzare una pista di 2400 metri più qualche centinaio di metri di sicurezza per un totale più o meno di 2700 metri e che permetterebbe l'atterraggio di decollo di aerei più grandi di quelli attuali e lo sviluppo quindi di un aeroporto intercontinentale con la possibilità di accogliere e ricevere aerei direttamente da altri continenti. Questo farebbe ovviamente dell'aeroporto di Peretola un aeroporto assolutamente intercontinentale e per quanto riguarda il Parco della Piana significherebbe sostanzialmente non del tutto la sua estinzione, ma il passaggio da il Parco della Piana come elemento ordinatore dell'area metropolitana fiorentina di qui al futuro a un Parco della Piana come semplice elemento di compensazione essenzialmente per il peggioramento della qualità dell'area che il gran numero di aerei in atterraggio e decollo previsto su il fantomatico futuro aeroporto intercontinentale avrebbe. Quindi a tutto questo ci opponiamo non solo per le conseguenze rispetto al Parco della Piana, ma anche perché un aeroporto intercontinentale nell'area metropolitana fiorentina sarebbe di fatto un'infrastruttura necessaria a quello che è un assalto al centro storico, al patrimonio storico-artistico e alla estrazione di valore da tutto questo. Assalto al centro storico che è già in essere da molti decenni, ma che con una infrastruttura di questo genere sicuramente rischierebbe un salto di qualità sia per intensità che per quantità. Ci sembra appunto che sia una logica quella, diciamo, della mercificazione di tutto che a Firenze appunto opera da molti anni, ma che è a rischio proprio per l'intensità di questo processo che ha cominciato a riguardare tutto il costruito, non solo i cosiddetti contenitori dismessi, dalla manifattura tabacchi alle ex caserme alle aree ex industriali che sono state coinvolte negli anni in processi di trasformazione anche di grosso calibro, ridisegnando interi quartieri e costruendo quello che il mercato richiede, quindi essenzialmente per Firenze centri direzionali e appartamenti. Dall'altra parte si sta dando l'assalto con delle operazioni anche di facilitazione amministrativa per fare il punto sulle quali vi rimando all'intervento di Ilaria Agostini che potete ritrovare guardando tra i podcast della trasmissione Passaggi a Nord-Ovest, intervistata appunto da Carlo dentro la trasmissione e che ha fatto un ottimo punto della situazione su quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione comunale fiorentina guidata da Nardella e dal Partito Democratico nel facilitare l'apertura di cantieri anche in edifici propriamente storici. Questo assalto al centro storico, chiaramente, come ho detto, ha bisogno di infrastrutture. C'è una vecchissima metafora, similitudine, metafora o immagine che in uso già dai tempi del Partito Socialista, che descrive diciamo il patrimonio storico e culturale italiano come il nostro petrolio. Usando questa metafora possiamo immaginare come Firenze, la Firenze rinascimentale e medievale per lo più, come un grande giacimento petrolifero che ha bisogno dell'infrastruttura per estrarlo. L'infrastruttura o il pipeline, cioè il gasdotto con il quale si può estrarre questo petrolio, che nella metafora è il patrimonio artistico e culturale, sarebbe l'aeroporto intercontinentale, che molto più di quello attuale sarebbe in grado di attirare turisti verso la città. A questo progetto, quindi, non solo di aeroporto, ma dell'intera area metropolitana fiorentina che verrebbe piegata a questo utilizzo della città, del centro città mercificato e portato alle estreme conseguenze, ci opponiamo e il 27 mercoledì rilanciamo questa lotta e la rilanciamo dal basso, la rilanciamo a partire dall'esperienza di questi anni di riappropriazione territoriale, che in qualche modo è stato l'elemento innovativo di questo ciclo di lotte che si è riaperto intorno alla fine del 2012 e all'inizio del 2013, per passare nelle grandi manifestazioni popolari del 2015, del 2016, per arrivare alla costruzione e all'insediamento del presidio in quel del Via dello Smannoro, e che continua il suo lavoro. Lo continua in questi anni un po' sotto traccia, nonostante la grande vittoria contro l'inceneritore di cui abbiamo già parlato, e quindi anche a partire da questo grosso risultato, che appariva assolutamente inarrivabile quando abbiamo ricominciato nel 2012-2013, rilanciamo la lotta anche contro l'aeroporto, per questa piana che vogliamo difendere e che vogliamo ridisegnare dal basso. E lo facciamo in una fase storica e anche in una contingenza in cui non è stata facile, proprio perché abbiamo avuto anche le elezioni campigiane, che ovviamente, come sempre, pongono non delle eccessive difficoltà ai movimenti, però insomma sono passaggi sempre delicati, perché il tentativo di utilizzare anche le stanze dei bottoni delle amministrazioni è un tentativo, credo, tutto sommato anche legittimo da parte degli abitanti e delle comunità territoriali, e però mette a volte in difficoltà anche le relazioni tra chi si spende di più in una dimensione che è di rappresentanza politico-istituzionale e chi si spende di più in un attivismo, in una militanza che è di tipo auto-organizzato e indipendente. Quindi in questo passaggio, visto che si sovrappone in qualche modo, o comunque arriverà pochissimo tempo dopo la tornata del ballottaggio campigiano, si rilancia questa iniziativa. E quindi lo dico ancora: mercoledì 27 dalle ore 19 più o meno alle ore 21 si arriva al polo universitario di Sesto e ci snodiamo come serpentone, da una parte verso il presidio, dall'altra verso Sesto. Quando avremo raggiunto la massima estensione con la nostra catena umana e il nostro abbraccio sarà soddisfacente in termini di lunghezza e partecipazione popolare, ci spostiamo poi tutti al presidio, dove si continua con una cena all'aperto e con della buona musica, e ovviamente socialità no inceneritore e no aeroporto. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Eccoci tornati in voce, per chi si fosse collegato adesso, siete su Radio Wombat, nello spazio radiofonico della stampa rassegnata, trasmissione che si occupa di ciò che avviene intorno a noi, proprio nel senso, diciamo, per dirlo un po' ironicamente, a chilometro zero, cioè proprio nella cronaca locale. Riprendiamo le notizie dal Corriere Fiorentino del 21 giugno. Un'immagine a colori è l'immagine del Palazzo Vecchio sul quale l'amministrazione comunale ha proiettato delle slide, tra queste quella che ha fatto notizia with refugees 20 giugno, giornata del rifugiato, e poi il simbolo dell'UNHCR, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su il rispetto e la solidarietà con i rifugiati, insomma l'Agenzia delle Nazioni Unite per quanto riguarda i rifugiati, l'Alto Commissariato. Ci sembra assolutamente necessario dire delle cose, e come ho fatto nella settimana precedente, forse anche altre volte, ricorro un po' alla memoria per aiutarci in questo labirinto che è la politica odierna, labirinto che poi tutto sommato non è neanche così da cui perlomeno non è neanche così complicato tirare fuori le gambe se siamo in grado di esercitare un minimo di razionalità e tenere i piedi per terra senza farsi intossicare dalle narrazioni tossiche del potere, qualunque esso sia e di qualunque colore casacca indossi. Vorrei con questo fare questo ragionamento, cioè noi sappiamo che abbiamo un governo fortemente caratterizzato da elementi di razzismo e di intolleranza etnica, molto evidenti, molto forti sono state le parole d'ordine che lo hanno connotato, soprattutto per quanto riguarda la sua componente leghista, anche se non ha, non è stato poi eccessivamente da antidoto il Movimento 5 Stelle, che anzi, come sappiamo, sui temi migratori è attraversato da una forte ambiguità in cui, insomma, con tratti diversi da territorio a territorio. Però questo è un po' il quadro. Si fa un grandissimo parlare dei temi dell'immigrazione, della sicurezza, che hanno indubbiamente caratterizzato e dominato la scena della comunicazione politica prima, durante e continuano a farlo dopo le elezioni dell'attuale governo, e dall'altra parte si è prodotto, come è successo più volte nella storia di questo paese, utilizzando e affondando le radici in un trasformismo che caratterizza la politica italiana sostanzialmente dalla sua nascita, e non serve aver fatto l'università di scienze politiche, ma basta aver letto un manuale di storia durante le scuole superiori per saperlo. Si è dall'altra parte prodotto un nuovo tentativo, di fronte politico che attraverso i temi di della accoglienza e della tolleranza in chiave del tutto elettorale cerca dall'altra parte una nuova base sociale e nuovi consensi tra la gente. Nella nostra città quindi accade che praticamente viene annunciata addirittura una contromanifestazione, una mobilitazione per appunto sempre il 27 di giugno, e in vista di tutto questo non si sono vergognati di proiettare questo cartello di cui io appunto ho semplicemente dato descrizione, perché descrivere con le parole un'immagine è quello che possiamo fare attraverso la radio. Non si sono vergognati di proiettare appunto il simbolo dell'UNHCR sul Palazzo Vecchio. A questo vorrei rispondere appunto con un evento del passato. Era sindaco Renzi, era il 2011 in questa città, e dopo una piccola ma importante vertenza, forse la unica che ha avuto questo iter e questo sviluppo nella città di Firenze, un gruppo di abitanti, di cittadini fiorentini, insieme a un gruppo folto, nutrito gruppo di stranieri, uscito in qualche modo, che aveva socializzato tra sé e aveva avuto la capacità di riflettere sulla propria condizione all'interno delle strutture dell'accoglienza istituzionale del comune fiorentino, aveva già prodotto una prima manifestazione per la libertà di circolazione e per i titoli di viaggio. Titoli di viaggio che non arrivavano allora, e con ancora più forte difficoltà arrivano oggi nel caso dei migranti che toccano come primo paese ospitante all'interno della fortezza Europa all'Italia e che poi per un lungo periodo sono costrette a rimanere in Italia e non possono andarsene. Quindi questa condizione di fatto di detenzione forzata sui nostri territori era una condizione che questo gruppo di migranti, come altri in tutta Italia, hanno fatto allora e continuano a fare oggi, volevano mettere in discussione. Quindi da una prima manifestazione per la libertà di circolazione e per i titoli di viaggio, questo gruppo di migranti trovò le giuste corde di socializzazione tra sé per arrivare a una manifestazione non da poco, cioè ad una tendopoli piantata nel centro e nel cuore della città vetrina, della città della moda, e intorno al 20 di maggio del 2011 piazzammo, mi coinvolgo in questa cosa perché c'ero e ci ho partecipato anche direttamente come militante, come attivista, piazzammo questa tendopoli di fronte alla fortezza d'Abbasso, nella quella che si chiama oggi Piazza Bambini di Beslan, era da poco costruita e da poco inaugurata. Questa tendopoli riuscì a mettere in qualche modo in crisi l'immagine della Firenze di allora, era sindaco Matteo Renzi, e a ridosso dell'apertura di Pitti Immagine la tendopoli venne sgomberata. Venne sgomberata in un blitz ad opera dei vigili urbani del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, nonostante appunto la condizione dei rifugiati fosse una condizione sulla quale è chiamato ad intervenire e a sorvegliare lo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite, cioè gli stessi di cui si è proiettato il simbolo. Ecco, la giunta Nardella, la giunta PD, in tutto e per tutto in continuità con l'esperienza renziana, che oggi vanta e sbandiera la propria tolleranza o la propria diversità in cifra morale rispetto alla Lega e al Movimento 5 Stelle oggi al governo, in quegli anni, in quell'episodio, non si comportarono, credo, a nostro avviso, ma credo che gli ascoltatori lo potranno tranquillamente riconoscere, in modo diverso da quello che avrebbero potuto fare oggi, gli uni al posto degli altri. Questo è insomma quello che vorrei arrivare in sostanza a dire, e vorrei dirlo argomentandolo e lasciando la parola anche alle registrazioni fatte allora a caldo. Successe che appunto lo sgombero avvenne con un blitz discutibile anche dal punto di vista delle pratiche dell'ordine pubblico, perché fu eseguito dai vigili senza la partecipazione delle forze di polizia o carabinieri. Non con questo per dire che lo dovrebbe fare l'uno o l'altro, ma certamente abituati ad essere diciamo in qualche modo trattati dall'ordine pubblico, da polizia e carabinieri, vedersi aggrediti fisicamente dalla polizia municipale lasciò tutti abbastanza di stucco. Quindi evidentemente gli ordini arrivavano direttamente dal Palazzo Vecchio, dal Comune e dalla Giunta, e con molta probabilità, come poi emerse nei processi che chiaramente seguirono al fattaccio, perché ovviamente il tentativo di sgombero produsse una reazione da parte dei compagni, degli attivisti e degli stranieri stessi coinvolti nella tendopoli, ad essa sono seguiti dei piccoli processi, e quindi anche all'interno dei processi abbiamo assistito a dichiarazioni che confermano quanto quello che accadde fu un vero e proprio colpo di mano ad opera della giunta comunale e del sindaco Renzi. Vi vorrei quindi far ascoltare la registrazione tratta da un video di cui ringraziamo ancora, come ho fatto la settimana scorsa, per l'audio del 2000 che ho mandato, dava le voci di Lorenzo Bargellini e Orietta Lunghi, che si battevano nel lontano 2000 contro la possibile apertura del centro di prima, insomma, di permanenza temporanea nel 2000 a Sesto Fiorentino. Lo stesso dalle stesse mani tiriamo fuori questo audio, cioè è l'archivio 68 che ha digitalizzato alcuni materiali che ha messo disponibile su Archive anche questo. Chi vuole si può guardare il video cercando semplicemente su Archive e facendo una ricerca per parole chiave, può scrivere sgombero tendopoli Firenze e può vedere il video. video che comunque rende, secondo me, anche solo in audio, perché fa immaginare quello che sta succedendo sul posto, cioè ci sono gli stranieri che si trattengono le tende mentre i vigili della polizia municipale del comune di Firenze tenta di strappare e distruggere la tendopoli per farla andare via. Insomma, è uno sgombero nel quale non si deve liberare una struttura dagli occupanti, ma si deve proprio eliminare le strutture che permettono la permanenza degli occupanti. Quindi si stanno strappando le tende, gli stranieri le stanno trattenendo e arrivano un paio di compagni che sono quelli che fanno il video, sono le voci che sentite e riconoscete meglio. Qualcuno riconoscerà anche la voce di quei compagni che sono ancora oggi impegnati nei movimenti in questa città, in questi territori. E niente, credo che l'audio parla della violenza di questa operazione fatta dal, ancora una volta lo ripeto, dal comune di Firenze, capeggiato dall'allora sindaco Renzi, gli stessi che in continuità oggi espongono il simbolo dell'UNHCR sul Palazzo Vecchio, che si fanno belli dicendo che la loro politica in materia di accoglienza, rispetto dei diritti umani e sicurezza è di altro tipo rispetto a quella della Lega e del Movimento 5 Stelle. Mi permetto con questo di continuare a porre seri dubbi sul fatto che ci sia una reale e concreta distanza e discontinuità tra queste forze politiche nell'amministrazione dei flussi di migranti, che poi è semplicemente l'amministrazione del capitalismo globale. Vi lascio andare quest'audio e poi ci risentiamo. Merda. Vogliamo parlare con qualcuno che conta, non con voi! Vogliamo parlare con il sindaco! Gente bene, bene! Giornalista. Ma non svegliato, Paolo! Si vede che non ci svegliate, perché state bene attenti a sgomberare quando non ci siamo! Ma c'è solo ma... Serve perché c'è un altro! Fatti foto, che è meglio, fatti foto! Fatti foto, che è meglio! Guarda, che diavolo fate! Ma che cazzo fate? Mi vergogno che non esiste! Guarda, siamo rifugiati sono? Politici! Ma voi chi siete? Siamo rifugiati! Ma lei chi è? No, faccia! Un documento, per favore! Siamo rifugiati! Un documento, per favore! Siamo rifugiati! Guarda! Vai, capezzuola adesso! Sì, sì, no! C'è problema, ti ringrazio! Faccia capezzuola! No, grazie, sto venendo subito! Allora, dai, segna! Non ce l'ho più, ma chi sei, scusa? Polizia municipale! Sì, allora, che vuoi? Come che vuoi? Vabbè, polizia municipale, però, segna! Stai rifiutando? Sì, aspetta! Tu vuoi mirare, dai! Lucio! Lucio! Tu non lo sai! Non lo so! Non polizia mi sparo! Bravo, bravo! Liberità! Liberità! Liberità! Liberità! Liberità! Mille figli! Ha fatto un po' di immagini? Non parla più forte di me. Ma sono vigili, sono cazzo, che sai mettere che fanno operazioni di genere? Dico se non ci può sgomberare. Sì, sì, ma sgomberà non è un problema, infatti non sto facendo nulla. Capezzuola adesso, vai, segna. Sto sul nome. Guarda, devo segnare il nome a me. Complimenti. Ma io voglio sapere. Bravo! veloce. Cioè, ma voi sei vicino, dico se non ci sgombra, ci ha detto che venite voi. Però fordogli! Ma che fa? Come sei vicini siete? Ma che... Come vi permettete? Cioè, ma come vi permettete di fare una cosa del genere? La dico se non ci sgombra, venite voi. Ma a parte che la dico, cioè, come vede, non è che siamo... Dove la dico? Cioè, sono laggiù in 5 e voi venite a sgomberarci. Ma voi venite a sgomberarci in questa maniera? Ma che loro sono rifugiati politici? Infatti non li ma un'emergenza umanitaria, ma cioè, ma lei... Però un'emergenza umanitaria non stanno... Complimenti. No, ah, no, facciamo video, cioè mettiamo... Vedi, mettilo così come ce l'ho io, ma mettiamo in rete quello che fate, cioè. Ma loro sono rifugiati politici, cioè, ma una... Qua ci sono le leggi a favore, ci sono. Che cazzo è, ma sei stato portato? Oh, ma se... Oh, è mia la tenda, però, ma la rompo, non la rompo. Non si ruba, è qui, è tua. È un malarone. E allora figlia, te la va. Occhio, occhio, guarda. Te l'ha rotta lui. Perché me l'ha rotta lui? Si identifica. Guarda, qua c'è un telefono. Lui ha perso il telefono. Guarda, il mio telefono ha preso fuori. Scusatemi, no, guarda, io sto in Italia 5 anni. Un giorno lo Stato non mi ha dato in mano. Io sono andato fuori dall'Italia, sono andato in Svezia e voi... Ed eccoci tornati in voce per andare a chiudere con le ultime notizie per questa stampa rassegnata di questa settimana, e lo facciamo così. Firenze al via la mini Fashion Week di Pitti Bimbo. Sfilate e eventi dal 21 al 23 giugno con 572 collezioni. Niente, cosa voglio dire? Voglio dire che questo è l'articoletto pubblicitario con cui mercoledì 20 di giugno Repubblica si pubblicizza la partenza di Pitti Bimbo. Come sapete, l'edizione, diciamo, rivolta ai piccoli delle sfilate del mondo della moda che si svolge a Firenze. Sicuramente uno degli eventi, se non l'evento a livello mondiale, ma sicuramente a livello italiano, più importante per quanto riguarda la moda bimbo. Ne voglio parlare perché abbiamo parlato comunque nell'audio precedente, avete sentito lo sgombro che si svolgeva per l'appunto davanti alla fortezza dentro la quale si svolgono gli eventi di Pitti, di tutto Pitti, Pitti immagine, Pitti uomo, Pitti donna, Pitti bimbo, e appunto questa settimana, giovedì, è cominciata Pitti. L'articolo ci informa che la mini Fashion Week di Pitti Bimbo è pronta a partire alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Sfilate, collettive, eventi per i brand della moda per i più piccoli, che conquisteranno l'attenzione dei buyer nell'87esima edizione della rassegna, forti dell'aumento di fatturato nel 2017, che è passato a 2,8 miliardi di euro, che sono un significativo più 3,6%. Ci sono 572 collezioni, di cui 351 provenienti dall'estero, con 160 tra nomi nuovi e rientri. Non ne leggo più, per chi volesse ovviamente può andare a informarsi di più, ma mi interessava leggere l'articolo per lanciare, diciamo, una palla e uno stimolo e anche un ringraziamento e un abbraccio ai compagni e alle compagne della redazione di Radio Onda Rossa, che proprio in questi giorni hanno messo a disposizione, sicuramente non sarà un caso, una intervista con l'autrice di un libro che ho ascoltato, mi ha impressionato e credo non potevo non parlarne, essendo la nostra trasmissione appunto relativa al territorio per l'appunto nel quale si svolge Pitti Bimbo. Parlo del libro di Flavia Piccinni dal titolo bellissimo, Baby Miss, giovani modelli e aspiranti lolite, un libro di cui appunto io ho scoperto l'esistenza ascoltando questa trasmissione, intervista di Radio Onda Rossa. Chiunque di voi può farlo, può andare sul sito di Radio Onda Rossa digitando Radio Onda Rossa su qualunque motore di ricerca e poi con il motore di ricerca interno scrivere Flavia Piccinni oppure bellissime o qualche altra parola connessa e senza problemi arriverà la trasmissione. Un libro e una ricerca, un'inchiesta, un libro inchiesta fatto da questa Flavia che è una mamma e che racconta il mondo soprattutto delle bambine per quanto riguarda l'impatto sull'immaginario costruito rispetto alla donna, all'ipersessualizzazione delle bambine che vengono fatte sfilare con vestiti e con pose veramente impressionanti, e Flavia lo racconta con precisione di particolari ai quali ha assistito proprio nel tentativo e nello sforzo di osservare e sistematizzare poi nel libro quello a cui ha voluto volutamente, ripeto, assistere, come fanno gli etnologi e gli antropologi, e che non stupisce ma che colpisce per appunto la capacità del sistema capitalistico contemporaneo di mettere a valore tutto, non solo la prima infanzia, ma anche forse soprattutto le aspirazioni dei genitori e delle proiezioni psicologiche sul futuro dei figli che alcuni genitori fanno. Queste aspirazioni sono così fortemente sfruttate da parte dei brand e delle case di moda che si arriva addirittura a non retribuire sostanzialmente in niente i bambini e le bambine che partecipano, con probabilmente il solo rientro dell'approvazione dei propri genitori, i quali hanno forse come unico rientro la speranza che queste piccole carriere si trasformino un domani in carriere adulte e che possano fruttare sia a livello di popolarità che a livello di veri e propri guadagni materiali. Quindi vi lascio con lo spunto del libro e chiudo su questa notizia. Chiudo su questa notizia di Pitti, ripeto, il libro di Flavia Piccinni, il titolo è Bellissime. La seconda notizia ed ultima con la quale vado a chiudere e vi saluto è la notizia sui vigili urbani, sempre da Repubblica, questa volta di giovedì 21 giugno. Per i vigili urbani si cercano giovani, selezionati solo gli under 32. Finora il limite massimo era fissato in 40 anni, ora assessore e comandante vogliono abbassarlo. Affronteranno meglio le attività su strada. L'articolo è abbastanza lungo e non lo sto a leggere anche per aspetti relativi al tempo a nostra disposizione, lo riassumo perché poi tutto sommato è abbastanza semplice. Si scatena subito una polemica fatta dai sindacati, tra questi anche sindacati confederali, che quando le cose sono apparentemente poco importanti sono sempre presenti, e che diciamo argomenti da parte dei sindacati sono di questo tipo: da una parte diciamo viene letto come una violazione di un diritto quello di abbassare l'età agli under 32, perché questo mette fuori gioco tutti coloro che hanno sopra i 32 anni e che comunque da un punto di vista anagrafico non sono certo vecchi, soprattutto l'evidente contraddizione nel momento in cui l'età pensionabile è stata portata quasi agli 80 anni e quindi poi si mettono fuori mercato quelli che hanno più di 32 anni. Poi c'è l'altro aspetto che mi sembra quello probabilmente più interessante della vicenda, è che appunto abbassare la soglia delle assunzioni è un meccanismo funzionale ad avere un corpo di vigili urbani più giovane, ma soprattutto più prestante da un punto di vista fisico, anche perché con molta probabilità verranno introdotte anche delle prove fisiche diciamo che limitano l'accesso al concorso e quindi al posto di lavoro. Esigenza che evidentemente emerge da un impiego della Polizia Municipale sempre più legato ad attività di ordine pubblico, che siano esse le attività dell'antidegrado, che siano esse le attività del controllo e del pattugliamento delle strade, che siano esse le attività legate agli sgomberi veri e propri e alle attività di contrasto dei fenomeni di cosiddetto abusivismo anche abitativo. Il Comune di Firenze si distingue da anni per un uso nell'ordine pubblico molto forte dei vigili urbani, e notizia che appunto fa pandan con quello che poc'anzi vi abbiamo riproposto, che è lo sgombero della tendopoli avvenuto nel maggio del 2011, in cui erano coinvolti proprio i vigili urbani, a dimostrazione che le tendenze in corso nel 2018 hanno un solco tracciato profondamente e che è lungo anche nel tempo. I vigili urbani sono stati utilizzati in attività antidegrado, antisgombero, da molti anni, a partire tranquillamente possiamo risalire alla giunta Domenici con le ordinanze dei lavavetri, che caratterizzarono Firenze per una delle città in mano ai sindaci sceriffo, e ad oggi la giunta Nardella non aggiunge niente di particolarmente nuovo a tendenze già in corso. Con questo vi lascio e vi saluto con un'ultima raccomandazione, che quando faccio ricorso, diciamo, ad aspetti di lungo corso, non voglio dire con questo che la storia non cambia e che niente muta, assolutamente no, voglio solo dire metterci in guardia da ogni possibile tentazione di un frontismo con forze e settori della sinistra PD, della sinistra istituzionale, che ha poi proiezioni e compagini anche sociali non necessariamente immediatamente riconducibili alla politica, che però nel nostro codice genetico c'è qualcosa di profondamente diverso che queste forze politiche hanno cominciato a distruggere e smantellare anni e anni addietro. Con molti poca probabilità riusciremo a trovare si riuscirebbe a trovare una quadra con soggetti di questo genere. Non credo con questo che appunto che per gli ascoltatori di Radio Wombat ci sia nessuno che muore dalla voglia di fare alleanze con pezzi del PD, ma l'utilizzo e l'esercizio della memoria l'ho sempre trovato un elemento importante nella decostruzione, nella decifrazione del presente e quindi anche come viatico per il futuro. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con la stampa rassegnata. Speriamo di vederci mercoledì 27 nella zona del presidio a difendere la piana che vogliamo. Ciao ciao!